La versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, in questo mercoledì 15 giugno 2016 in diretta agli studi di Milano, sempre che riusciamo a mantenere la diretta perché fuori è in corso una cosa da monsone, tipo sembra di stare a Mumbai, vi garantisco, in India è una cosa impressionante, quindi speriamo che reggano le strutture del palazzo, e lo dico preoccupato perché di solito quando piove così a Milano in questi giorni poi ci sono anche dei danni, speriamo di no. Però Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia appunto per l'ascolto, vi ricordo l'indirizzo della versione di Oscar con la chiocciola radio24.it come sempre. Molti di voi hanno chiesto in questi giorni: ma quando si parla di Brexit, quando si parla di Brexit? Noi intanto dedichiamo, ve lo dico da adesso, sabato i conti della Belva quasi tutte le due ore a Brexit, quindi preparatevi per intervenire e dire la vostra, e comunque lasciamo ancora passare queste amministrative, dopodiché nei tre giorni prima del botto, perché se finisce a Brexit, come dicono i sondaggi, in questi giorni è un bel botto, almeno questa è la mia opinione, avremo in quel caso purtroppo, dico io, di che discutere, ma purtroppo fino a un certo punto, perché poi la questione è che a furia di comprimerla la democrazia diretta e non far scegliere i cittadini, significa che i cittadini poi fanno scelte laddove vengono loro consentite anche di quel tipo. Da noi, ricordiamolo, è la Costituzione che ci impedisce referendum sui trattati internazionali, giusto? Secondo me sbagliato, però detto questo, questa è la mia opinione. Allora, di che cosa parliamo invece oggi? Quindi per intervenire all'800240024 3492386666 per gli sms. Siamo costretti da un fatto di cronaca grave e da il Consiglio dei Ministri che si tiene oggi pomeriggio esattamente su questo tema, che si tiene tra un'ora, dovrebbe essere convocato alle 5:30, torniamo a parlare dei furbetti del cartellino del settore pubblico, perché la notizia è quella che trovate sui siti dei giornali da questa mattina, e cioè l'ennesimo episodio che testimonia come questo fenomeno, che si dica, perdura purtroppo, sfida ogni ragionevole acquisizione di consapevolezza che dovrebbero cessare questi episodi, invece no, continua. Ci sono stati 9 arresti stamattina alla ASL di Caserta, tra chi andava a fare shopping o accompagnare i figli a scuola, chi andava a lavorare in pizzeria dopo aver timbrato, chi andava a correre, anche i medici legali, quelli che poi dovrebbero fare le visite di controllo, uscivano anche loro per i fatti loro. Questa volta, visto che c'erano stati gli esposti ai carabinieri, sono stati i carabinieri della compagnia di Maddaloni che hanno notificato le ordinanze di custodia cautelare. Sentiamo in sintesi l'audio del capitano dei carabinieri Pasquale Puca della compagnia di Maddaloni sull'operazione che si è svolta stamattina. L'attività di indagine è partita a seguito di alcune segnalazioni che ci sono pervenute al comando. È stata condotta mediante attività di videoripresa, e pedinamenti e poi l'analisi dei tracciati dei cartellini magnetici di riconoscimento. Timbravano all'orario previsto, dopodiché si allontanavano subito dal posto di lavoro per le loro commissioni private, chi accompagnare i figli a scuola, chi andare a fare la spesa, alcuni degli indagati addirittura per fare jogging. 16 indagati, 9 dei quali sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, mentre 7 sono stati sospesi dal servizio per la durata di mesi 6. Ecco, questa è la voce del capitano dei carabinieri Pasquale Puca della compagnia di Maddaloni, grazie alla collega del GR del 24 Anna Marina che l'ha raccolta. L'ennesimo episodio, quante volte in questi anni sono accadute? Ricordate quante volte anche a Roma, a Sanremo, chi timbrava in mutande e così via. Noi vi abbiamo ripetuto molte volte, a dire la verità, che nelle norme già vigenti da anni questo fenomeno, cioè l'uso di artifici o false timbrature o aggeggi di tipo diverso per eludere comunque il controllo e l'asseverazione degli orari di svolgimento del proprio servizio, già questo da anni e anni le norme, il testo unico del pubblico impiego, poi confermate dalla riforma delle sanzioni e delle violazioni disciplinari della riforma Brunetta del 2009 e così via, è motivo di giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro pubblico, cioè di licenziamento. Ovviamente vi abbiamo sempre ricordato che poi a fronte di questo c'era numeri molto bassi di coloro che andavano incontro a questo tipo di sanzioni, può arrivare fino al licenziamento naturalmente, a seconda poi dell'indagine disciplinare, i cui tempi erano, secondo le vecchie norme, i 60 giorni, si può graduare la sanzione in maniera diversa, ma detto questo però, ad onta delle regole che erano vigenti, il fenomeno rimaneva quello che è noto sotto i nostri occhi e che di volta in volta poi costringe le forze dell'ordine, le procure eccetera eccetera a videoregistrare e a dare le prove del fatto che in alcune parti diffuse evidentemente della pubblica amministrazione si torna e anzi si continua a comportarsi in questo modo. E mille volte vi abbiamo detto anche che evidentemente c'è un problema che riguarda la dirigenza, perché quando ci sono fenomeni di questo tipo è impossibile pensare che avvengano senza che i dirigenti preposti a quei servizi ne sappiano qualcosa e se ne rendano conto. Quindi c'è un problema di dipendenti, sì, ma c'è un problema anche di dirigenti. Su questo diamo atto che il governo, come diceva il Presidente del Consiglio, già molto tempo fa si è mosso, fino al punto tale poi dal dire uno dei decreti delegati della riforma Madia della pubblica amministrazione si occuperà proprio di modificare le norme che ci sono già, ma di renderle ancora più stringenti su questo fenomeno per impedire che continui questa vicenda dei furbetti del cartellino. E infatti il decreto delegato è atteso proprio per il Consiglio dei Ministri che ci dovrebbe essere tra 50 minuti. Sentiamo un secondo Renzi che cosa diceva su questo tema a gennaio del 2015 addirittura, vero? Ecco, a gennaio del 2016, mi sbagliavo io, però insomma mesi fa. I furbetti del cartellino, chi timbra e se ne va. Ho letto autorevoli commenti dicendo le norme ci sono già. La norma è molto semplice. Se io ti becco a timbrare il cartellino, entro 48 ore ti mando a casa sospendendoti, giusto? Con 30 giorni poi per chiudere il procedimento. La differenza rispetto alle norme del passato, visto che c'è una felice sintesi tra Brunetta e la CGIL che dicono ah, le norme ci sono già. Sì, non sono efficaci come questa. Questa è una norma per cui se la Madia è quella che timbra il cartellino e se ne va e la Giannini è la dirigente, oggi non c'è un obbligo di licenziamento della Madia, è la Giannini che può valutare se fare o no. Noi diciamo, cara Giannini, se non la licenzi te, non ti preoccupare, licenziamo anche te. Ecco, queste erano le parole del Presidente del Consiglio e fine dell'introduzione, qualche giorno fa, quattro giorni fa, il Corriere della Sera ha detto, proprio riferendosi a questa chiusa del Presidente del Consiglio che diceva guardate il dirigente non avrà più facoltà di valutare perché altrimenti rischia la pelle anche lui, nel testo che era di cui c'erano anticipazioni della nuova norma che era stata anticipata, lo avete sentito, dal Presidente del Consiglio, era previsto inizialmente anche che scattasse la fattispecie penale per il dirigente come omissione di atti d'ufficio. Il Corriere della Sera quattro giorni fa ha scritto no. Nel testo che andrà al Consiglio dei Ministri, quello di cui siamo in attesa oggi, salta l'ipotesi automatica della fattispecie penale per il dirigente perché è stato valutato che il rischio di fronte alle impugnative di massa che vi sarebbero sarebbe troppo esteso, con gli effetti poi a quel punto anche di impedire la sanzione diretta del licenziamento in 48 ore sul lavoratore beccato e comprovato a fare il furbo rispetto allo svolgimento del lavoro dopo aver timbrato. Allora, questa è tutta la premessa. Per capire meglio cosa davvero è questa norma, perché i sindacati ve li abbiamo fatti sentire molte volte, oggi non li risentiamo, i sindacati vi hanno spiegato molte volte da questi microfoni appunto che quelle 48 ore non sono compatibili comunque con i tempi più lunghi del procedimento disciplinare, avete sentito che comunque il Presidente del Consiglio dice no, saranno 30 giorni e non 60, però per farci spiegare il tutto abbiamo con noi il sottosegretario per la semplificazione della pubblica amministrazione Angelo Lughetti, che io A ringrazio di essere con noi e B naturalmente gli chiedo qualunque stupidaggine abbia detto o non cosa non corretta abbia detto in questa introduzione di correggerla immediatamente. Buon pomeriggio intanto. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Ho commesso qualche errore? No, no, assolutamente. Infatti, allora, dopo la sua premessa c'è poco da aggiungere. No, non è vero, perché la norma ce la deve spiegare, perché come ha visto, siccome i sindacati molte volte da questi microfoni hanno detto ma queste sono chiacchiere, annunci, non si potrà fare mai. Adesso ci siamo e spieghiamola. Allora, oggi va in Consiglio dei Ministri per la lettura definitiva e quindi vuol dire che oggi il Consiglio approva e poi viene pubblicato dopo la firma del Presidente sulla Gazzetta Ufficiale. e quindi diventerà legge, quindi andrà a disciplinare tutti i fatti che avverranno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto che era stato approvato in via preliminare il giorno in cui il Presidente del Consiglio lo spiegava. Sì, a gennaio. Fatto sentire, esatto. Allora, cosa cambia rispetto ad oggi? Cambia una cosa, cioè che diventa effettiva una procedura amministrativa, quella del licenziamento, dovuto appunto ad una attestazione fraudolenta della presenza in ufficio, un procedimento che oggi è scritto sulla carta ma che non si realizza e che anzi l'unico modo per realizzarlo è l'intervento del giudice. Infatti tutti i casi in cui noi abbiamo un fatto, diciamo, conclamato, lo abbiamo soltanto perché a un certo punto arriva la procura che piazza le telecamere e attraverso queste telecamere poi fa scattare gli arresti. Quindi è come se ci fosse oggi una ammissione di impotenza, no? Della pubblica amministrazione, che dice: se non c'è il sistema penale io non sono in grado di difendermi e di difendere le comunità che sono amministrate da queste persone che lavorano negli enti. Allora noi come abbiamo fatto per renderlo effettivo? Diciamo? Attraverso un po' di buonsenso, e cioè andando a cercare di rimuovere quegli ostacoli che oggi ci sono. La prima cosa è l'automaticità del procedimento. Quindi, siccome parliamo di un caso specifico e speciale, e cioè dove c'è una fragranza di reato, ok? Una fragranza di comportamento, e quindi dove o ti vedo deviso da che timbre te ne stai andando, o c'è una telecamera che ti riprende e me lo fa vedere, quindi non ho bisogno di una ricerca di prove, no? Né documentale né complicata, in questi casi scatta una sorta di procedimento disciplinare atipico e in 48 ore intanto ti sospendo la retribuzione. Dopodiché ti convoco, sempre entro le 48 ore, per contestarti gli addebiti, si dice, cioè per darti la possibilità di difenderti, e entro 30 giorni, se mi hai convinto, rientri in servizio, se non mi hai convinto, ti licenzio. Questo è il modo più diretto e naturale che noi abbiamo trovato per evitare, ripeto, quello che succede oggi, perché oggi da un lato non c'è l'automatismo, dall'altro si applica una procedura disciplinare che va a coprire delle fattispecie astratte molto diverse l'una dall'altra. Mentre questa, appunto, lei ha detto, è un canale atipico, perché questa riguarderà specificamente solo esclusivamente questi casi, cioè i casi in cui noi abbiamo una evidenza conclamata di un comportamento fraudolento, e quindi c'è uno, se ne accorge, no, lo vede, timbra, lo chiama, basta, ma entro 48 ore non hai più lo stipendio, poi viene a dirmi che ho visto male, cioè dovrà giustificare questo atteggiamento e questo comportamento. Un altro, se posso aggiungere, certo, un altro elemento molto importante che sarà introdotto nella norma, riguarda la possibilità di impugnativa. Oggi sappiamo tutti che in molti casi, anche quando si arriva al licenziamento, poi i lavoratori vengono reintegrati non perché il giudice stabilisce no, hanno avuto un comportamento corretto e voi vi siete sbagliati a giudicarlo, voi amministrazione, ma il giudice reintegra il lavoratore perché dice: ah, non hai rispettato il termine dei 7 giorni, ah, non hai rispettato il termine dei 15 giorni, quindi il lavoratore viene reintrodotto per un vizio di forma. Sì. Allora noi qui introduciamo una norma importante, perché diciamo che salvo il caso in cui non siano stati dati i tempi giusti per difendersi, quindi fatta eccezione per questo caso, in tutti gli altri casi in cui un'amministrazione, anche se ritarda di 3 ore il termine che era previsto per legge, quella non può essere una causa di impugnativa. E quindi riduciamo da un lato il contenzioso, dall'altro riduciamo la possibilità che anche i licenziamenti fatti in virtù di questa nuova norma siano poi resi vani da un procedimento amministrativo non completamente corretto. Per far capire ai nostri ascoltatori, non glielo devo spiegare io ma glielo ricordo, naturalmente non sono versati in diritto amministrativo, in diritto del lavoro per le prassi e le norme disciplinari per il pubblico impiego e così via, ma capiamo bene nel dire, se non mi corregga, che a quel punto le impugnative giudiziali che restano a disposizione dell'eventuale pubblico dipendente, una volta che viene avvisato, intimato in 48 ore, gli viene sospesa la retribuzione, ha i 30 giorni per difendersi, se poi gli viene confermato però l'addebito e il licenziamento, che l'impugnativa giudiziale a quel punto resta per lui solo nel caso in cui ritenesse e riuscisse poi di fronte a un giudice a dimostrare che si è trattato di un intervento, di un licenziamento discriminatorio, cioè esatto. È solo questa la causa che resta, esatto. O no? Esatto. Ecco. Perfetto, lei l'ha detto meglio di me, dovrebbe fare il sottosegretario. Non credo proprio, non credo proprio, meno male che c'è lei. Detto tutto questo, posso fare una domanda? Anzi, io faccio la domanda, poi abbiamo 60 secondi sul traffico e quindi dopo apriamo questo capitolo. Perché quello che ci chiedono molti ascoltatori è: ma che cosa pensa chi ha la responsabilità politica, come lei in questo caso, il ministro, il governo, del fatto che malgrado tutto ciò che è stato detto in questi mesi, arriva la norma, continuano ad avvenire queste cose? Cioè, come si vince la battaglia al di là delle norme e della cultura, cioè del fare capire che possono cambiare la norma ma tanto noi qui continuiamo, perché l'esperienza è un po' questa che viene comprovata da fatti come Napoli, e ripeto, non stiamo dicendo che riguarda la maggioranza dei 3,2 milioni di pubblici dipendenti, assolutamente no, però il numero di casi testimonia che c'è una parte, che non sta a me quantificare, non proprio però trascurabile, del pubblico impiego, in cui evidentemente atteggiamenti collusivi della dirigenza eccetera eccetera fanno rimanere nella convinzione un mucchio di gente che si può continuare ad andare avanti così perché tanto non si rischia molto. Allora, questa è la domanda, così dire, culturale: come si fa a cambiare questa cultura? Ci vogliono contratti nuovi? Sarà il salario di merito? Vediamo di toccare questo punto al di là della norma. La norma l'abbiamo spiegata, torniamo tra un minuto, intanto traffico. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta, siamo partiti dalla vicenda dei furbetti del cartellino all'ASL di Caserta, 9 arresti, e numerosi, molto più numerosi, gli avvisi di garanzia consegnati a nome della procura dai carabinieri della compagnia di Maddaloni, che hanno comprovato appunto il fatto che ci fosse gente che timbrava e se ne andava per i fatti suoi, compresi dirigenti, medici legali e così via. E vi abbiamo spiegato, perché con noi Angelo Lughetti, il sottosegretario per la semplificazione della pubblica amministrazione, la norma che è la risposta del governo alla persistenza di queste vicende dolorose purtroppo, e che oltretutto comprovano una testa di milioni di italiani il fatto che nella PA, ecco, queste sono le cose vere, l'inefficienza, il fatto che tutti badano i fatti loro e così via. Al Consiglio dei Ministri, che comincia tra poco, va una norma che modifica le norme già vigenti e restringe anche l'area delle possibili impugnative. In 48 ore si interviene automaticamente, non c'è più la discrezionalità, per così dire, che era quell'elemento collusivo anche della dirigenza nel valutare o meno i comportamenti. 48 ore l'intervento, subito si sospende l'erogazione dello stipendio, 30 giorni per difendersi, le impugnative sono limitate, e vediamo se questo giro di vita a questo punto farà la differenza anche in termini di cultura, perché a me interessa anche questo aspetto qua. Sentiamo intanto qualche telefonata da alcuni di voi per vedere se ci credono, se ci sperano, se pensano che sia abbastanza. Non è poco però quello che passa oggi, eh? Io sono oggettivo dopo anni che mi occupo di sta vicenda. Umberto dalla provincia di Verona, sentiamo l'opinione di Umberto, prego. Sì, ciao Oscar. Ciao. Il provvedimento secondo me va nella giusta direzione, il problema è che secondo me il problema è più a monte, mi spiego. Se io, che sono un autonomo, quindi sono lo schiavo fiscale che poi deve mantenere, ahimè, siamo colleghi di sventura, ok, se in un ufficio, in un ente pubblico, in una provincia, in una regione, che può svolgere efficacemente le sue funzioni con, mettiamo, 10 persone, ma dentro ce ne sono 50. Overstaffing. A me, come schiavo fiscale, che convenienza ho se questa persona, una volta timbrato, va dentro a fare una mansione, diciamo, Umberto, non allora, è chiaro quello che hai detto. Per questo io spero che quando si arriva al salario di merito, che già è stato contestato 2 giorni fa a questi microfoni dal responsabile Will, che c'era, perché dice no, perché non ne parleremo nei contratti, stabiliranno tutti i dirigenti, non siamo d'accordo e così via. Secondo me quella roba serve esattamente ad affrontare il problema che dici tu, cioè che ci sia una parte considerevole del salario di merito, che serve proprio a distinguere, a incentivare e a disincentivare. Francesco da Padova, come la pensa, Francesco? Francesco dopo vi porterà fuori dal discorso, ma adesso vi dice già che sono d'accordo con il mio collega di Verona, perché se ci sono 50 persone dove ce ne necessitano 10, io dico 40 andrebbero lasciate a casa, magari con una sorta di ammortizzatori, e qui chiudiamo il discorso. Io volevo dire un'altra cosa invece, che i furbetti del cartellino di solito, e io ne ho testimonianza diretta, hanno anche degli stipendi piuttosto, anche se non sono dirigenti, piuttosto più alti della media del privato. E per fare la media con il privato, sapete cosa si fa? I giovani che vengono assunti il primo anno con il contratto a termine, il secondo anno col Coco Pro, e il terzo anno col Coco Co, dopo un anno e mezzo con contratto ancora a termine, sempre licenziati, sempre, mai uno per decenni, visto che dicevano ma si può fare 3 anni, e dopo, quando hanno passato il decennio, dico per testimonianza diretta, uno viene assunto magari se è indispensabile su una partecipata del comune magari. No, e questo è un altro problema ancora, Francesco, su questo abbiamo ricordato i dati proprio 3 giorni fa, è verissimo che fino allo stop dei contratti pubblici di 5 anni fa la media retribuzione a parità di qualifiche del settore pubblico per via dei rinnovi contrattuali pingui aveva portato il rapporto fino a 1,5 quasi rispetto a quelli a parità di qualifiche del settore privato. Dallo stop dei contratti e del turnover, ma dei contratti, perché di questo parliamo, il premio a parità di qualifiche del settore pubblico è sceso verso quota 1,1, quindi c'è ancora un vantaggio ma molto più limitato di quanto non fosse fino a 5 anni fa. Diamo atto, questa è una conseguenza della tagliola che però hanno con lo stop ai contratti subito i dipendenti pubblici. Allora, torniamo ad Angelo Rughetti, come si fa a cambiare la cultura, cioè a far capire la norma è arrivata, non solo non vi conviene più, ma bisogna cambiare la mentalità, non serve su questo contratti nuovi e diversi nel pubblico impiego? Sì, tanto la norma secondo me serve anche per ridare dignità, perché tratta in modo diverso situazioni diverse, a ridare dignità a tutti i lavoratori pubblici che ogni giorno mandano avanti una baracca e tirano sulla serranda, no? Quindi certo. La differenziazione è fondamentale, quindi questa è una norma che a differenza di quello che diceva Brunetta, cioè che pensava che nel pubblico impiego sono tutti fannulloni, noi pensiamo che invece nel sistema pubblico bisogna investirci, perché dove il sistema pubblico funziona può fare la differenza, cioè se ci sono delle imprese che hanno dei comuni, delle province, delle regioni che offrono servizi di qualità in tempi brevi, in tempi certi, ad esempio pagano entro 60 giorni, ad esempio danno delle risposte alle autorizzazioni nei termini previsti dalla legge senza fare scattare il silenzio assenso, quell'impresa ha un vantaggio competitivo rispetto ad altre imprese dove questo quel territorio non ha, se ne avvantaggia, non c'è dubbio. Certo, se se ne avvantaggia l'impresa vuol dire se ne avvantaggia il lavoro, certo, se ne avvantaggiano le famiglie, la qualità della vita cambia. Allora noi abbiamo scommesso sulla pubblica amministrazione da questo punto di vista, per questo se diciamo, ci fosse un sindacato gli direbbe sì, ma ci sono 10 euro a testa per i contratti, questo è il secondo tema. La seconda differenziazione è fare in modo che, soprattutto perché le risorse sono poche, non dare le risorse a tutti a pioggia come abbiamo fatto in questi anni, ma andare a mettere le risorse sui servizi e andare a mettere le risorse dove la comunità richiede che vadano quei servizi. Perché anche qui scegliere quali sono gli obiettivi da raggiungere un anno non può essere lasciato all'illuminazione di un dirigente che magari ha interesse a premiare tutti, no? Ma è un qualcosa che serve agli altri, serve ai clienti della pubblica amministrazione, che appunto sono i cittadini e sono le imprese. Allora, e aggiungo, noi in questi anni abbiamo fatto delle operazioni restrittive, non fare contratti, un blocco del turnover ha portato a livellare la retribuzione pubblica con quella privata sostanzialmente e a ridurre in modo considerevole il numero dei dipendenti pubblici. Okay. Molti ascoltatori ci chiedono una risposta secca sì no, perché non hanno capito una cosa: al di là della fattispecie penale, l'automatismo della contestazione con i tempi del 48 ore e poi 30 giorni significa comunque che resta quello che ci ho detto all'inizio, cioè se il dirigente non l'attiva automaticamente rischia anche lui e va a casa anche lui? Sì o no? Sì, ah, va perfetto. A casa e viene segnalata alla procura. Perfetto. Allora, questo è quello che chiedevano gli ascoltatori. Grazie al sottosegretario Rughetti. Continuate con Radio 24. Appuntamento con me domani mattina alle 8:15 con Attenti a noi due. Ma sarò